toglierlo, Né, guarda, tolto. No, basta che lo regoli, se no non si capisce niente. È ripetitivo, buonasera comunque anche a lei. Glielo per lei, mi scusi, Oh, io sono qua già da un'ora, va bene così, non c'è problema. Continuate pure, stavo facendo le prove, sono qua. Come da un'ora? Ma eri qua in questo canale, ma non si sentiva nessuno però. No, già c'ero. No, ma nessun disturbo, per carità, no, non ti preoccupare. Ero qua e facevo delle prove con Itri in banda laterale, poi sta regolando una radio, ma siamo sempre qua, non ti preoccupare, ci scottiamo. Eri con Itri? Sì. Ma un personaggio che conosciamo già in frequenza, oppure non so, un'altra frequenza? Ah, non lo so se è un personaggio, per me è un CB, poi se tu chiami un personaggio non lo so. Ero con Gianni Giaguaro, stavo facendo le prove, ma continuate pure, non ci sono problemi, sono qua in ascolto. Cappasa. Ok, attento. Deposizio. Tutto a posto comunque, via. Com'è adesso questa radio? Perché ho tolto l'eco, ripetitivo. Ma è una radio, è perfetta. Ti ripeto la parola intera, è bello quell'eco. L'unico digitale che c'è in commercio finora, ma è bello veramente. Sembra di essere per cartello. No, guarda, questo impianto, questo apparato ripete, non una parola, ripete una frase intera di 4-5 parole. Tu sei bella per quello, l'avevo avuta io qua, tanto che ecco, effetto elicottero. No, questo io se lo regolo, mi dà una frase, posso dire ad esempio, no? Ciao e beh come stai? Ciao e beh come stai? Lo ripete diverse volte, ma è una frase completa, non si accavalla poi con un ecco finale che ti dà solo una parola finale, anzi due sillabe. Già ho capito, già non c'è problema per quello, è bello per quello, mi piace per quello a me. Però questo quando lo acquistai, già lo sai, no? Di chi anno sto parlando? C'ho tantissimi anni e avevo pagato una barca di soldi, non lo so. Adesso va in voga l'effetto elicottero, è proprio come andare in voga l'effetto ciucucciù, e fanno ciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucciucci vedrai che in epoca è quello, fa poco. E saranno di moda, però mi sembra una stupidaggine. Prima c'era Zellava, c'era quel microfono faceva. E beh, quello è vecchiotto. Sto dicendo, lo comparano tutti, e non mi ricordo se era Zellava 26, boh, adesso è sparito la circolazione. Ma bellino era. Quando mettevi che prendevi il pesantino, tutti si immaginavano che aveva la vera a fianco. E qualcuno ce l'ha ancora. Non penso, no. Sono sparito la circolazione quelli ormai. Beh, magari ce l'ha, perché chi non ha più modulato lo ha ancora quella prima, magari che ce l'ha. E senz'altro sì, ce l'ha magari conservata, però no. In tradizione l'ho più sentito, c'avevo io una volta, l'ho riparato e il giorno che l'ho messo era da piangere, non da ridere, da piangere era quella cosa lì. Era un po', sì, era particolare. Andare avanti qua. E qua deve essere che si è spostato un attimo. No, quello era in questo canale, dice, ed era in ascolto. Però io sono rimasto un pochettino e non ho sentito nessuno. Poi ho fatto un fischietto, ho sentito te e basta. Ma ero un bel po' in ascolto. C'erano due che sentivo bassissimi, ma arrivavano poi con Santiago Zero. Ho detto, ma io ci faccio una chiamatina, così, qualche segnalino. E si è intervenuto tu, però Claudio non l'ho sentito prima. Cioè, per almeno 5 minuti non si è sentito. E evidentemente era in ascolto. Senz'altro, non lo so, però la verità, vabbè, comunque sia, non c'è problema. Siamo qua, sono 5, che devo entrare, faccio compagnia a Battacchente, non c'è problema. Siamo aperti a tutti. A dove? problemi. C'è quanto da, da due fatte di portante. Cazzo un casino, no, non fa. Da due fatte di portante bianca c'è a 30, ma che tu fai? Però guarda, se vuoi, se io l'ho fatto col mio, la verità è uscita perfetta. Cosa vuoi dire io? Il mio va bene, usarlo, perché io non ho toccato in giallo 6 da 10, quindi va normale, il discorso è quello. Se non tocco le 10 lui c'è qualcosa, mi picchi se ne è più in alto. Come invece con io soltanto, se ti ricordi bene, usavo col Ubuntu 2001, era una bomba, era. No, questo Antonio c'ha picchi troppo alti, dai, non fa, vabbè. Dai, proseguite, già vi sto ascoltando, sto terminando questo lavoretto. Vedo un po' se riesco a abbassarlo leggermente di piccoli modulazioni e poi magari dopo lo provo, dai. Riprenditela, Vittorio. Ehi, cappa, stai attento a questa regolazione, stiamo sempre regolando, facendo voi, mamma mia, oh, lo so che sei un esperto, per carità, però sai com'è, gli apparati quando nascono normali, io sono d'accordo sempre a lasciarli così come nascono, a mio parere. Ma tu chiami apparato un baracchino, io chiamo apparato un apparato decametrico, io i baracchini li chiamo baracchini, questo è un apparato decametrico che sto tarando praticamente lo spunto della portante in positivo, quindi è un'altra cosa. Voi chiamate tutti gli apparati e poi di baracchini si parla, io quando parlo di apparati parlo di HF. Per me gli apparati sono apparati HF, i baracchini si rimangono sempre baracchini, possono essere grandi anche 1 metro per 1 metro, sempre baracchini sono. Ah beh, questo è chiaro, però devo anche fare una piccola correzione, che esistono dei baracchini così chiamati sempre sull'ambito baracchinoso che hanno una caratteristica quasi da professionale e quindi anche quelli si avvicinano a quella branca. Sì, ma ti correggo sempre Vittorio, quando tu parli di quarti stai parlando di baracchini, quando parli di sintonia continua stai parlando di HF. Quindi quando parli di PLL, di canalizzazione, tu sempre di baracchini devi parlare, non esistono apparati come gli HF, quindi quando io parlo di apparati per me parlo di sintonia continua, io, poi non ho mai corretto nessuno, ma per me questo è il significato della parola vera e propria. Gli apparati sono gli apparati HF, quindi sintonia continua 0,30. Non ci sono baracchini che facciano 0,30, partono sempre da 26 a 30 baracchini, diciamo i baracchini di buona concezione, ma per me sempre baracchini sono. E beh, è chiaro che la HF è HF, non stiamo lì a fare cose, discussioni che non servono a nulla, però volevo dire che ci sono anche dei baracchini che hanno una certa sensibilità, una certa professionalità, certi baracchini, non tutti, ci sono dei baracchini anche un po' professionali che si avvicinano, ho detto avvicinano poco fa. Io ti capisco, io ne ho dei baracchini che vanno da 26 a 30, non ci sono problemi, però per me sono sempre baracchini, perché quando tu giri la manopola e lui tira il canale, per me sono sempre baracchini, questi è un'altra cosa, no, sto parlando un HF e cercando di farle dare il picco minimo per poter usare un amplificatore HF, siccome c'è il picco troppo alto, quindi sto cercando di darle appena appena al microprocessore uno spunto inferiore a quello che ha tutto qua, ma con tanto di strumento, quindi non ci sono problemi, non stiamo giocando con i cacciavitti come dici tu. Sì, già ho capito, era un discorso come un altro. Ok, lancio a te, Anto. Ok, aspetta, lascio la prova. Vediamo se funziona. È una prova, ma con la KF? Sì, con 180, con 221. Aspetta un attimino, faccio la prova. Certo, adesso attenzione, Antonè, sto chiudendo le finestre, perché se mi arrivano le valvole a testa, cazzo, te la metto in conto. Tranquillo, anche arrivano le valvole in testa, non ti preoccupare. preoccupare. Il caschetto metti qua, quella più fortunistica, non c'è mai. Ciao Redi Rivacomi, Vittorio Sarra Rivacomi. Ciao Rami, allora. Sta a posto fino a Marconero, vieni a scaricare poi spiaggia. Sono quello che faccio qua, non ti preoccupare. Già lo sai, ho fatto un numero di loro, e posso parlare con 121, non ti preoccupare. Maurio. Ehi, ehi, Mantone, 131 c'è una parola, attento, vale, potenza, bassa, bassa, dimmi. 45, dai, vai su, andate su. No, aspetta un secondo, voglio vedere se aumenta il segnale di Antonella, come si comporta con la KF con un lineare da CB. Voglio vedere una cosa un attimino, Giovanni. Questo lo fanno saldare, non c'è problema, possiamo passare anche dove vuoi tu. No, vai, vai, vai, è sempre scuola questa, prove tecniche di trasmissione, voglio vedere come si comporta un secondo, vai, vai, vai. Ok, poi già sei stata, allora, dove siamo? M, 9, 5. Ok. Un attimo, adesso c'è l'antenna. Un momento posto uno. Con l'effetto. Aspetta un attimo. Eccolo qua. Ancora al minimo. Ora, ora, ora, attaccato e staccato. Attaccato e staccato. Ancora c'è della valvola. Certo, funge. Funge, funge. Sì, sì, sì, sì. Funge, funge, attenuato 20-40, funge, funge. Però tu non c'hai molti picchi di modulazione, no Antone? No, no, infatti non ce l'ho perché salgo da 2,5 a 6, 6, 7. E quindi per quello che funge, sto dicendo. Tu ce l'hai voi, ti dico di sì, perché io ho avuto 2,1, se ti ricordi bene, usavo questo, andavo a fare l'acqua di Valghero. La voglia si è pompata, ma ha pompato un po', me ne dava 700 tonni di tonno, me ne dava. Cosa vuoi prendere? Pompa, pompa, non si brucia un cazzo. Ancora qua buona fretta, che presente è quello. Ora, ora, ora, ora. Picchi positivi addirittura. Ora, ora, ora, ora. Meglio delle cose. Ora, ora, ora. Aspetta, lo scalda, ti faccio vedere che devi fuori più di 200 questo. Questo funge, funge. 40-45 attenuato, con picchi positivi. E adesso vedo un po' se riesco a metterle, a darle appena appena sul microprocessore di spunto lì, perché ne ha due. Leggermente massimo il picco da 5-10, allora ci siamo. Il mio è molto più grosso di quello, capito? C'è una valvola, io ne ho 4 in più, quindi dandole anche 10-15 watt di picco, ma 30 sono troppi. Va bene Antonè, va bene, complimenti, ottimo, ottimo lavoro, dai. Proseguite che io mi proseguo questa cosettina. Metto, riprendi. Ma c'è un altro sotto, avanti. Lo sento basso. Antonio, lo senti? Sì, c'è Franco che ti ha chiamato. Attenzione Franco. Franco, mi ascolti? Guarda, ma non capisco. E basta, so. sei in macchina senza, in camion senza andare in macchina. Comunque è troppo classe, sto dicendo che è proprio un bel. Io l'ho avuto 2001 e un treno e 780 litri che va fuori con me. Così 80. Lo usavo fatto quella la mazzava anche in AM. Per volte con picchi a 7 massimo 10 ne ho, adesso facciamo scaldare la porta, va bene, e ti faccio vedere che ti faccio scoppiare tutto. Ci cambia. Io rientro domani. Oh Giulia, che carità. Come ti arriva a te? Fitto? 9:30. Sta salendo, sei a pian piano, sta salendo. Sono già 100 e qualche cosa, sono picchi positivi. Prova che non mi resta fino a 9, se mi vuole da picchi negativi, invece questi picchi positivi mi dà. Sta andando e sollevando, sì. Fa ciucucciù, ciucucciù. È una bestiaccia quello lì. Ehi, già va bene, 231, c'è a casa se va bene. Sembra uno scaldino, cazzo. Che bellicendo. Mamma mia, come sta? Questo che sto usando io è un bacio a voi. Per carità, non so che radio è, ma so che racchia. Non è racchia, non ti preoccupare, non è racchia. Rauce di nosa sarà, gracchiante. No, non ti preoccupare. 150 in questo momento sono. Vediate grigio, 9:30, 9:30 e passa. Questo per non prendere in giro nessuno, ma qua, senti. Signor Kenwood, con 231. Maledetta. Si sente la differenza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Picchi a 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A poco. Radio come chiara? Beh, devo dire che la modulazione non è molto chiara, Antone. Va un pochettino a distorgere leggermente, ma poca roba. Rimane più chiara sulla amplificazione inferiore. Eppure mi sento chiaro chiaro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guarda un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E adesso? Sì, già avuto un calo, però poca roba. Cava, cava. Già va bene, già va bene. Sono contento, sono contento. E così? No, così è troppo. Allora, guarda un po'. Esce male, vado. Sì, così va male. E invece così esce bene. E ci siamo. Stava parlando bene la volta, era prima lui che stava parlando male, il 2009. Ah, che bello, quanto scalda qua. Sì, ma allontanati un pochettino dal microfono, forse perché sei troppo vicino. C'è che fatto, Vox? Quanto sei distante? Sì, un metro quasi. Perché infatti va leggermente a saturare, no? se ti allontani cedi un pochino. Allora, così sono attaccato, no? E come sono liscio? E cosa cambia? No, già cambia, già, con tutto il mio passaggio ha schiarito parecchio. Quindi è schiarito parecchio. Sono 5 watt e che a 10. Aspetta un attimo. Guarda adesso 1, 3, 4, 5, 6, se la voce è chiara. Sì, la voce è sempre chiara, però va leggermente a saturare. Invece con un passaggio precedente è migliore. Sì, vabbè, sto pompando, scusa. 120 tira fuori, 120 fabbisogni, picchi positivi. Modulazione 2 watt e mezzo, picchi 10. Siamo pronta. Ecco, abbassa un po'. Abbassa per la pena. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, sempre uguale. Non può essere. Sono mezzo watt, figurati. Sempre uguale, la saturazione c'è sempre. Invece avevo fatto un passaggio prima di stacco e ho notato una netta chiarezza proprio. Mi sembra una cosa, io comunque mi sento chiaro. Ecco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, io comunque mi sento bravo. Se a parte la sono saturo, si sento chiaro chiaro con il 2009. Picchi. Allora. 150 tondi tondi. Sentono però molto probabilmente, sto pensando che sia anche il rimbombamento della stanza, l'usanza, che va a ripercuotere il suono e quindi tutto è un suono unico e va a rimbalzare sul microfono, probabilmente è questo, infatti no, per esperienza ti sto dicendo questo, perché proprio ieri sera io stavo facendo dove suono, dove facciamo le prove. La stanza è vuota, no? Non c'è né un mobile, non c'è niente, è un stanzone e quindi tutta la stanza, quando abbiamo fatto la registrazione, si ripercuota questo vuoto e va poi un po' a saturare, ma è una questione di suoni. Ehi, aspetta, c'è qualcuno che stava lamentando. Guardate che stava lamentando, buonasera. Chi è che si sta lamentando? Poi sono andato lì, mi ero fatto là, ho sentito così, poi parlare tu. Sono venuto un po' di verbale qua, mi per fare i controlli sul 5. Capito? Cos'è? Non vogliono modulare qua, e chi? Beh, c'erano i clienti, c'erano ragione, magari non parlano con l'altro, non so. Ma avevo fatto io la pastiglia, niente di strano. Ma se stiamo disturbando qua noi, non se ne possono andare sul 6 o sul 4, ce ne sono tanti canali, per forza qua dove è già occupato. Poi vabbè, non cambia niente, non ti preoccupare, non cambia niente. Sì, ma ancora, se io non li sento, è zero. Sì, esattamente, si cambia forte, il discorso è quello. Comunque sia. Allora, la valvola è a posto, non c'è un cazzo sta valvola, perfetto. Picchi positivi, 150 tondi tondi, so. 5 watt di pilotaggio, 10-15 di modulazione, ed è perfetta. Il battito non è esploso, anzi la carica non è esploso, il ligano non è esploso, quindi è a posto la cosa. Così sono 150 e così sono 5. E si sente la differenza. Basta vedere già una terba. Non devo venire a mettersi. ma lascialo come quest'ultimo passaggio però. No, vabbè, sono visione, non capisco mai, sono visione. No, la differenza c'è che è molto più chiara qua. Perché sono con due scaglie, non prego. Quello scatto che fai di aumento, che ti stai buttando, non so adesso quanto, dà un po' di saturazione e va leggermente a risorgere. Naturalmente devi considerare che abbiamo anche una certa distanza, tu la ascolti sei lì, ma in trasmissione la distorsione si sente a distanza, perché è chiaro, no? Infatti prova a fare due passaggi. Io per con il 2001 e per K3 siamo uscito 700 tondi con il corso, con 80 di lavoro fuori, quindi per quanto sto dicendo, mica siamo termine del 9, no? Il lavoro lì che usiamo, per la mattana. Vabbè, non è esploso, guarda. Neanche qui non succede niente, guarda. È perfetto. È una bomba familiare, è veramente una bomba. Non ce l'hai per nessuno. È un bel demonio, liscio, è perfetto e non ha problemi. Allora, fino da tutto cazzo, scende con un 70, con un Bifusion 31. Non lo conoscevo che ho fatto la poca, sono io, la verità. Vabbè, che so quanto sale per il vatto. Ma bene, come il motore è migliore, tutto bene. E tu lo dici? Io lo dico. Adesso va bene la radio perfetta. Non va bene, non è chiaro la motorazione, non va bene. Adesso va bene, ti piace? No, no, no, ancora, non sei troppo carico, ma non va bene. Si è già visto, perché è un liscio, tu sei simbolato a fischi la verità, è un liscio adesso, non va bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 attaccato, adesso in otta, adesso io faccio un lavoro normale. Lo so che sta facendo bene. Non c'è un lavoro, ho parlato il suo. Che cos'hai? Che lineare? Che cos'ha? Il primo di 70 con il bucio 31, quello che ho io. Guarda un po'. 1, 2, 3, perché sono scemo, non per altro. Attaccato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E la voglia che aumenta, la voglia che aumenta lì. Aumenta e non distorce. Ma che è quello con lo smith rotto? No, lo smith funziona, è stato scelto il smith rotto. Sì, c'è un vato molto piccolino, non è che ci sia un vato molto grande. C'è un vato molto piccolo, quello di Benito è il lineare. Fa così. Questo è attaccato. Ah, ma. Cazzo, deve stare poco già. Ciucucciù. Pompa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Che bello, mi sembra che devo scaldare cazzo le uova sopra. Andiamo bene, andiamo bene. Non trovavano dare quello strumento più grande. Io l'ho ritirato quello strumento più grande, non ancora l'ho ritirato la verità. Però va bene, niente va bene, io ti farò votare per questo non babbo, invece c'è un cazzo c'entra la bavola. Questo mi danno con me picchi negativi, invece non questo mi dà picchi positivi, hai capito? Quindi la bavola è buona, non c'entra un cazzo la bavola. Cazzo se tombo questa bavola. Ma veramente va, se tu vieni qua a casa, te la faccio valere, che funziona con 70, per tutti i piccoli da scemo, ma comunque funziona benissimo, scusando quello. Questo mi ha fatto il bitto, guarda. Ma che sente il bitto? Ma non è chiamando, mi stavo. non potrebbe sentire. No, ancora no. C'è Gianni che stava chiamando poco fa. Avanti Gianni. Perché ero al telefono, mi sono assettato, capito? Capito, va bene, va bene. Gianni, Gianni, ti stanno chiamando. Spostiamoci di canale, stanno lamentando che non li fai parlare. Lo usiamo per lavoro, ce ne andiamo sul 21, sul 30. Su 14, dai, vuole entrare, andiamo su 14, che che sia. Ma io? Su 14 sono, se vuoi passare, non c'è problema. Sono qua. Te ho già ti ha detto che non ti abbisseghi di su intanto. Sono lui. se mi sento così che si sto lamentando, non ti preoccupare. Ciao Gianni. Oh, per me sentito. Erano incavolati perché dice che loro non li lasciavamo parlare. Dice a provare la radio, ve ne andate in altri canali, ma non li sentite. Ma loro non devono fare le prove o non devono farci andare in altri canali a noi. Se ne devono andare loro, quando trovano il canale occupato, si devono spostare loro. Cosa significa? Che devono modulare per forza in quel canale? Ma che cosa, se l'hanno comprato per caso? E vabbè, Vitto, per evitare tante volte, non costa nulla spostarsi, là. Si sa che quello lo usano loro per le questioni di servizio, di cose, di lavoro. Se me ne accetto, ok, se no è meglio che ti cerchi un altro canale, ti faccio sono tranquillo e via, tanto per stare a battagliare ogni volta. Sì, ma voglio capire una cosa, cosa significa? Cosa significa il canale 5? Questo vorrei sapere. Questo 5, perché poteva essere il 10, il 20, il 30 o il 40. Cosa significa? Il canale 5 si sa che è loro. Cosa significa si sa che è loro? Loro l'hanno adibito a un canale dove si incontrano, un canale monitor dei camionisti. Diciamo che è un canale come tutti gli altri, perché in effetti è così, è come tutti gli altri, si può entrare chiunque, eccetera, eccetera, ma se si sa che lo usano per lavoro, si può fare anche uno strappo per evitare di rompere le scatole a chi sta lavorando, va. Credo che si fa l'amore anche, la verità si dica, se ne fa l'amore in tutti i canali, cos'è la storia? Ma aspetta, voglio dire una cosa, sai quante volte io lo accendo, rimango lì in ascolto, poi giro, faccio dei... molte volte ne trovo, ad esempio, sul 5 che mudano, sul 7, sul 15, sul 21, e quindi non tutti mudano lì, quindi non è che questo numero 5 è adibito a loro, a chi a loro, a chi ci vuole modulare, non è che tutti quanti possono, perché se i camionisti sono ad esempio una ventina, non possono modulare tutti e 20 in un canale, ci sono altri canali, quindi cosa significa questo disturbo? Vorrei specificare questo, a questi ragazzi, mi permetto di dire ragazzi perché probabilmente ho qualche anno più di loro, chiunque sia, perché non credo che ce ne siano più grandi di me, dovrebbe essere in pensione se sono più grandi di me, quindi non sono camionisti, essendo dei ragazzi, io li considero, devono fare da bravi, se poi sono dei bambini, dei bamboccioni, devono smetterla di fare degli stupidi, quando uno è occupato in un canale, perché la frequenza è di tutti, loro si devono spostare, chiedono il permesso, chiedono un break, io lo faccio entrare, lui mi dice guarda io devo fare una chiamata per farmi spostare perché questo canale è occupato dall'amico e lo faccio spostare, ma io devo rimanere lì, non mi posso spostare io, lo capisci caro amico? Gianni si chiama. L'amico era il tipo me. Gianni, fatto da solo. Gianni è sparito. Gianni! Ma me stavi chiamando? Ah, è stato attaccato, non so, no. No, no, negativo, da me no. Non l'ha vista, eh? E mi troppo va bene. Attacco, attaccato. Attacco, attaccato. Hai agganciato già? Lo sento abbastanza bene. Un po' compresso, ma non un sacco. Un tantino compresso, ma è normale. Se attacchi la compressione si deve sentire. E vabbè, stop. Questo la togliamo subito. Aspetta un attimo. Adesso non è compresso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va bene, se ti piace. Non è che fosse anche il microfono, non hai troppo attaccato la bocca. No, assolutamente, è stata quella. Che sto sbloccando con 5 watt adesso, ogni tondi. Picchi a 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda, mi tocca questa maletta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non si brucia di lineare. Guarda un po', ora prova. Va buono. E a me come mi senti? Dici di sentire. No, anche lei ti sento bene, a quanto pompa sta cosa. Potrei avere 50 watt dell'apparecchio per tutti. Questo è molto molto meglio. Ciucucciu. Mamma mia, ecco questa volta con il V2001 qua. Vi faccio la pizza di piedi del cuore. Maniaco. Sì, maniaco, sì, caro. Però questa cosa da massimo 300 watt posso usare, se no si scioglie l'antenna qua. Ricordati. Già va bene, non è bello questa geccia. Attaccato, picchi positivi, non si attuazione non è niente. Staccato mi piace di più però. Perché sei troppo vicino. Aspetta che sono parabarbo, non è come avere l'apparecchio normale. La cosa è logica. Poi io mi sento senza antenna mio. Mi sento chiaro. Quando faccio le prove faccio senza antenna mia, non hai capito? Non è che faccio con l'antenna, ho senza antenna con l'antenna del 9. Ciò si incendia. Tu figurati che quello del 9 e senza antenna arriva a fondo scala. Sicuramente quando sto erogando, Prova attaccato perché adesso è riagganciato. Esatto, sì. Così è attaccato, così è staccato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per me è molto migliore adesso, quest'ultimo. Dipende, tu sei più vicino. Ma Gianni, non cambia la cosa, la verità. Non cambia proprio, è perfetto la modulazione. È un demonio. Vabbè, non succede nulla, non abbiamo fatto con niente, è perfetto. È una bomba. Tanto bella così. Gianni, hai capito quel discorso che hai fatto poc'anzi? Gianni si è dormito. Gli avrò miso, Evidentemente sì, forse si è spostato e si è addormentato sulle cose. Oi, quando parlo male del 5 tutti si nascondono, c'è qualche cosa che non va. Cosa che c'entra quello? Non è che stiamo parlando male del 5. Che noi lasciamo il 5 per il camionista e basta, ma non è che sia di tutti, lo sai. E tu che per quello, che c'entra quello? La verità, io a me non mi interessa niente, cioè, se mi chiede questo fare di più mi sposto, vuol dire, se sono aumentato vuol dire che ero troppo forte, il discorso è quello. Quindi vuol dire che la parecchia sta facendo bene e quindi non fa muovere uno con l'altro, per lì sono contento, hai capito? E la dimostrazione è che il lineare sta funzionando benissimo, che funziona, che è a posto con gli esperimenti che ho fatto io, e dimostra quello che dicevo io. Uiuia. Ma posso andare quando mi viene uno per dire sono di 201. Adesso quando metto a posto di 201 le MK prendo, ce l'ho quello. E quindi sono a posto. Userò quello, 300 watt e quelli che sono, non di più, se no non si finirà tutto. Gianni è sparito. Comunque sì, è fattibile usare il chilowatt di 80 e 440, quello che è con 5 watt, e uscire con 100, 120, 150, il discorso è quello. Perché è fattibile e basta. Si usano quasi una, non si è bruciato il finale, non si è bruciato niente, perché lo usavo già la prima sta con tempo fa, quindi vuol dire che la cosa è giusta. Basta sapere usare le, avere le regolazioni giuste e la cosa va bene, ed è perfetta. E io la dico. I valvolari non si portano mai al massimo, perché vanno poi a, a creare, che problema è questo, diciamo, vedete, 1, 2, 3, prova, sì, questo microfono sai che se ne sta andando. Come va? Boh, non lo so, mi sa che forse sono le batterie, perché questo microfono è batterizzato, 1, 2, 3, prova. Ma lì ti sento bene, ma qua c'è la batteria da 9 volte più bassa, il discorso li cambia. No, questa c'è una batteria piccolina da 1,5, da filo, un filo c'è, non è a 9 volte, a 9 volte c'è la monta, ce l'ho nella, nel mio più 5 che non uso batteria, ma ho organizzato un alimentatore, caspita, micidiale. L'ho azzeccato in pieno, l'ho messo a 8 volt ed è perfetto. Allora? No, non lo posso mettere qua, perché questo è un'alimentazione a 1,5. Ma che fai che sto usando adesso? Che cosa sto usando? Che apparecchio, non è quello tuo, no? Senti, ma chi lo è? No, è un altro vecchio questo, no, quello che ho riparato tu, lo sai cosa è successo? Il samurai l'avevo portato da Gavino Frau e mi ha riparato il frequentimetro, una cosa allucinante, me l'ha sistemato. Sì, me la vuoi, ma perché lo usi? Lo usi, ma adesso te lo faccio sentire, aspetta che mi devo spostare di posizione, te lo faccio sentire tra un po'. Che non potevi andare a cambiare la prima, va a fanculo. Ah, ci sei. Cambia la cosa, vai in buchi, dica, fatto come la prima. Ah, cambia? Aspetta che cambia, scusa. No, quella era una radio vecchia, dai, poverina, l'accendo ogni tanto. E da quello che senti di Saturno, vai in buchi. Saturno ero? No, mi sentivi più Saturno. Però per quello motivo, non ero vecchia. E ho visto che lo samurai, se li cambi l'integrato perché dentro dove c'è la scheda, si attoffa. Lo so, bisognerebbe fargli un lavoretto a questo. Adesso ne ho anche un altro. C'ho il suo soldi di questo. Me l'hai detto, ne hai due. Uno te l'hai pigliato, l'altro il frequentimetro non funzionava. E questo samurai qua, che non eravamo riusciti a sistemarlo, l'ho portato da quello da Gavino. Gavino me lo stavo guardando, dice, te lo sistemo io già per preoccupare. E me l'hai acceso, bello. Ma allora poi sono contento, mi fa. Perché evidentemente c'era qualche cosa di sganciato da tempo, ti ricordi che sono state fatte quelle modifiche per togliere i bip e quindi probabilmente avrà sgangherato anche quello lì e quindi poi niente. Ah, c'è il bip almeno, come si vede. Ma il bip adesso c'è. E certo che c'è, lascia stare così a toccare nulla. Sento che sotto il bip ti scappa la testa. Ma quello, guarda che quel tecnico è un mostro, me. Vabbè, non mi ricordo, ci sono tante forze, a me lo dà il sistema. Ma ho parlato, uscì a poco, vedo la gente, gli avevo messo mano. No, come sono contento che non l'ha sistemato. No, un altro è preciso, ah, cambia soltanto il nome e basta. Quel garage. No, ma era ora. Sono contento. Cazzo, diavolo. No, ma facendo come si deve, era ora. Vabbè, ma anche quell'altro apparato funziona bene, un po' saturino. E vabbè, comunque, tanti volte che sta bene, a voi. A lei come siete bene? Sì, ti sento bene, però devo dire che fai due passaggi, prima uno e poi l'altro, rosa. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Guarda, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ciucu ciu, ciucu ciu, ciucu ciu. No, aspetta, fai il passaggio però andando avanti e indietro. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, attaccato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, attaccato. Comunque non sono tanto in differenza perché lo sento io, nel 2009. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciucu ciu e ciucu ciu. Eppure sento la differenza, staccato è meglio, la sento più, più chiarina un pochettino, invece agganciato la sento un pochettino troppo corposa. E sentirai che c'è il calco, no? Non è che sia saturo, no? Ci mancherebbe. Mi sento sotto antenna io, mio Vittorio, per quello sto dicendo, se mi sento saturo mi sarei accorto subito, ma sono chiaro, figurati, e sto usando 5 watt sono di tondi, 10 di picco, figurati. 120 normali, 150 quando parla vicino con i picchi. Ciucu ciu, ciucu ciu, ciucu ciu. Va bene, va bene, va bene. Ok, certo sì che lineare.